Noi ovviamente ci muoviamo su quello che sono gli strumenti anche che noi abbiamo a disposizione. Noi appunto facciamo e distribuiamo cinema e documentario indipendente. Da ormai sì, più di un annetto avevamo in catalogo anche il film Un paese di Calabria, che è un film che consiglio a tutti quanti, a tutti e tutti di vedere, anche perché fa una mappa completa anche di tutta quella vicenda. E il minimo che potevamo fare, ovviamente in accordo con Serena Gramizzi, Bofilm, che è la produzione dell'opera e le autrici, è quello di aprire uno streaming gratuito per questo fine settimana, e poi probabilmente ne faremo anche altri più avanti, per rendere accessibile a tutti e a tutti l'opera in questione. Considerate che già il nostro modello stream, per chi ci conosce, è un modello comunque già aperto di suo, nel senso che tutto il nostro catalogo ha dei meccanismi di donazione libera, però ci sono dei momenti come questo dove crediamo che piccoli gesti come questo, e quindi garantire la totale accessibilità gratuita a un'opera per un periodo limitato di tempo, sia un contributo a ciò che a tutta questa vicenda, con gli strumenti che ha a disposizione il cinema indipendente. Quando è uscita la condanna a Mimmo Lucano, come avete reagito a questa notizia? Beh, diciamo che come tutti siamo rimasti decisamente esterrefatti, nel senso che ci sono state anche molte persone che hanno fatto l'esempio anche di altri avvenimenti recenti di tutt'altro genere, e però paragonandoli rispetto a quello che è stato poi il colpo subito in qualche maniera dalla giustizia, penso che purtroppo sia assolutamente in linea con la fase che stiamo vivendo, nel senso non è il primo caso dove si parla di criminalizzazione della solidarietà. È chiaro che questo è un caso lampante e a mio avviso anche inaccettabile per diverse ragioni, ma purtroppo non è neanche il primo della lista. Ne abbiamo visti diversi di casi di questo tipo. Pensate banalmente anche solamente al film che abbiamo realizzato l'anno scorso, che è uscito l'anno scorso, il nostro film The Milky Way, che racconta in parte anche questa dinamica, cioè in un altro contesto in quel caso, e quindi con le popolazioni dei territori locali tra Italia e Francia che vanno in aiuto dei ragazzi migranti che provano ad attraversare il confine e che spesso subiscono anche loro azioni più o meno forti di tipo repressivo. Purtroppo bisogna fare i conti anche con questa dinamica che stiamo vedendo troppo spesso, e questo è il caso della sentenza di Mimmo, è solo l'ultimo di una lunga lista. Il 6 e il 7 novembre appunto ci sarà Abbracciamo Riace Mimmo Lucano, quindi la vostra iniziativa nel concreto come si svolge? La nostra è, diciamo, relegata alla parte online, nel senso che chiaramente abbiamo scelto queste giornate anche ovviamente in continuità con tutto il resto delle iniziative che verranno messe in campo quel giorno, però sarà principalmente sulla nostra piattaforma, e attiveremo appunto l'opzione di accesso gratuito al film per quei due giorni. Faremo in modo che più persone possibile possano vederlo e accedervi. Siamo abbastanza consapevoli, ma lo sai meglio di me, nel senso anche le varie chiacchierate che abbiamo fatto in questi anni insieme in radio, che oggigiorno il cinema indipendente, soprattutto un certo tipo di documentarismo, ha saputo dare un fortissimo supporto a delle vicende o comunque delle battaglie, anche banalmente perché riesce a portare in luce più in profondità in quella singola vicenda, quella storia che vuole raccontare. E come ti dicevo all'inizio, questo è il minimo che possiamo fare per contribuire a questa causa, e soprattutto a fare chiarezza su questa situazione, nel senso che siamo anche in una fase storica dove purtroppo non è colpa nostra o di nessuno, però spesso ci troviamo a essere travolti da cicli di informazioni, per cui adesso chiaramente tutti siamo in un momento dove la solidarietà a Mimmo e al laboratorio che c'è stato lì ci viene automatica, ed è giusto che sia così, però è anche giusto che questo rimanga, nel senso che poi il rischio è che tra qualche mese, se la questione si affievolisce, non si affievolisce dal punto di vista repressivo, ma rischia di perdere un po' il filo da quello della solidarietà. Quindi è fondamentale mantenere in questa situazione, come in tante altre simili, una costanza, e anche il cinema indipendente ha il dovere di fare la sua parte in questo.